69esima trasmissione dedicata agli emigrati. La Cortesella. Acqua chiara e fresca che è nata nel cuore dei monti o nel mistero di una grotta o nel folto di un bosco e torna a chiantata al Soreli dopo un edì o milagno. E questa la risultive, che da 10 anni in Friuli è sinonimo di poesia. La compongono una brigata di giovani scrittori che oggi inviano ai fratelli lontani il loro poetico messaggio. È un messaggio di elevazione e di gradite scoperte dei preziosi segreti delle nostre mari lenghe. Il senatore Tessitori, presente a San Daniele del Friuli al convivio poetico di risultive, intervistato da Friuli nel Mondo, così si esprime nei riguardi dei nostri giovani poeti. I nostri poeti che costituiscono il gruppo di risultive possono stare alla pari dei migliori poeti che scrivono in lingua italiana. Essi hanno saputo usare della lingua friulana in modo tale che questa esprime fino nelle più minute sfumature il sentimento e il pensiero dello scrittore. Essi rappresentano per noi un elemento di progresso ed una certezza per l'avvenire. Il linguaggio friulano, come del resto tutti i linguaggi caratteristici dell'Italia, non possono non essere un elemento di progresso anche per l'avanzamento generale dello scrivere e della letteratura del nostro paese. Ed eccovi ora le poesie ravvivate dalla viva voce dei poeti. E questo un buon componimento della scrittrice Maria Forte. E ie di Avile di Buie. Da quel grum di poesis che ha scritis, a son di che i moments dulà che certis figuris appena motivadis, a vivin in interpretazions particolars, in ca e in là e barlume la filosomie dal so gran pais di agis e di quei insumiad di liendis e di fantasis. Temude di fieste, si sta ben cu la mude di fieste, li scarpis netis, la domenie, quanca dislei tre campanis, e cui tal torne di lontan, al chiate duc par saludà, sulla place curiose o sul sagrar lusoros, e lo starie i conte, di cui calemoar, di brai disquistadis, di viti savivi, i conte tal sum des campanis dagli espui. E musis ligeri salviur, suli squartis, finore di cene, la mude di fieste, tal burlade stiampanis, a buinore e tal dopo misdì. Si simbulo il sotan, e al butte la grande viole, ma di lontan, panno pozzolati, la mude fu l'odor dall'incensa agli espui. I voi cunatris per aulis, i voi de domenie. Poesie nervose che di Alan Brusini di Tresesi, plene di figuris fuertis e duri. Pasolini alla scritta di lui. Poesia dotata di una plasticità di immagini e di traslato quasi magica, irrelata e insieme, specie se in posizione di clausola, dotata di un nitore quasi parnassiano. Bambide che chiasute. Sul pradulin tosat a coz come un epiore, iena sude tal cil una chiasute come un scribiz di frutti. Se os berli, bambide che chiasute, se us costi al regalame, faraon. E viarte us darai garofui cabec in lismans, e il zi di Sant'Antoni che a nasalu us porti il nas di zal. E tal crud de siarade fumatose us clamarai d'ogne il spoler in bore cum buerie se ufiei un bocal di merican cula corone. Se os berli, bandide che chiasute, se us costi al regalame, faraon. Frutte giovine e sudizionose, Paola Valdissera di Udin, che ha scritto poesie splenis di fantasie sveade, di figuris vivis e di metaforis coragliosis e leadis, e che presente una poesia un'evore biele. Flabute, vualtris non mi cognoseis, ne mi ves cognosude. Une volte, on ulivi di ciclamin, donde clamada l'aghe dal paradis. E in biciclette al mi portà in città, un giovin dal mio mondo poesie, un viat maraveus, ma il ciclamin stupidut al si pierde, né al fu mai pugliatar, al passat antims mamint, e io ieri platà decidine, non ne di, dal mes di mai, da ur di une vetrine plene di rosis, io mi sentis florì, tune rosute rosse. Novevi mai viodudis tanti steluti spitininis, flusì e morì come sul mar. Al mi portà vivi tal soreli, un om vignù per me da lux lontan. Din che volte, io sai cui cosoi, rosute rosse in tune tazze, in spiete.